invece. Padre mondrone. Bugiardo. Tu stesso non lo credi? Perché sai bene con chi hai a che fare? Ricorda la lezione del Venerdì Santo. Lavorasti bene quel giorno. Per mezzo dei tuoi satelliti ti impadronisti di Gesù e riuscisti a farlo uccidere. Ma nella cecità del tuo odio non ti accorgesti che quella morte fu lui che la volle? E tu ne fosti uno strumento obbediente. Credevi di averlo liquidato per sempre. E invece il vinto fosti tu. Tu lo vedesti risorgere al terzo giorno. Vincitore della morte e del peccato. Vincitore tuo e di tutto l'inferno. Il mistero pasquale non si risolse una volta per sempre. Esso si rinnova lungo i secoli nella vita della Chiesa e delle anime. In una vicenda ininterrotta di lotte. Di morte e di risurrezione. Ma il trionfo del regno di Dio quaggiù non si annuncia clamorosamente. Si annuncia e progredisce e resiste agli urti nel mistero divino del silenzio. Maligno. I soliti vecchi pezzi di oratoria. Padre mondrone. Falso. Tu sai che questa non è oratoria. La mattina che risorse? Gesù non ebbe alcuna preoccupazione di vendicarsi dei suoi nemici. Cioè dei tuoi galopini. Nessuna voglia di umiliarli? Come avrebbe potuto fare? E come ognuno si sarebbe aspettato? Con una dimostrazione folgorante del suo trionfo sulla morte. Sarebbe potuto apparire dinanzi al Sinedrio, a Pilato, a Erode, a quanti lo umiliarono e lo misero a morte. Invece, non volle prendersi questa soddisfazione. Non si curò affatto dei suoi nemici. Non pensò minimamente a ristabilire dinanzi alla folla la reputazione che gli era stata tolta. Inaugurava il suo stile. Dava l'esempio di come si attua il suo trionfo su questa terra. Di come procede la sua chiesa in mezzo agli uomini e lungo i tempi. Un cammino faticoso. Senza strepito. Portato avanti nel silenzio. Coperta continuamente di ferite? Circondata di martiri? Costretta troppe volte a rifugiarsi nelle catacombe. Questa sarebbe stata la storia della Chiesa. Ma la Chiesa la conosceva prima di viverla. Perché tutto le era stato predetto. E sono proprio questi suoi apparenti fallimenti a renderla più simile al suo Signore. Maligno. Chiacchiere. Chiacchiere. Chiacchiere. Non vedi che ho in mano tutte le forze del male? Non vedi come le ho già tutte mobilitate contro il suo regno? La mia offensiva avanza ormai inarrestabile. Padre mondrone. Fino a quando? Vuoi farmi credere che sei il padrone della situazione? Ti presenti come il Signore e il dominatore del mondo. E sei appena l'esecutore dei disegni di Lui. Tu collabori soltanto alla magnificenza della sua vittoria finale. Come tante volte in passato. Così oggi? La Chiesa ha bisogno di essere purificata. E Dio, che la ama infinitamente, la visita per purificarla. Le prove servono a questo. Egli non spianta la sua vigna, ma la pota. L'attuale situazione di disturbo che tu e i tuoi scagnozzi avete scatenato in seno al popolo di Dio serve a questo? A purificarlo. Gli attuali apparenti successi della tua opera di seduzione e di disordine servono a lui. Ai suoi intenti. Alla fine si ritorcerà tutto contro di te e tu rimarrai ancora una volta scornato. L'improvviso agitarsi delle tendine della finestra? Mentre l'aria tutto intorno era ferma. Mi avverti che l'altro se n'era andato. Ive incontro nel paese dei senza Dio. Secondo quarto incontro non avvenne propriamente come i precedenti e come quelli che seguirono. Questa volta si svolse quasi tutto in un lungo sogno. Tra un alternarsi di incubi e di consolazioni che mi strapparono esclamazioni di stupore. Tutto avvenne in modo che mi sembrava di essere completamente sveglio. I sogni, dicono, di solito sono brevi, ma quello mi sembrò lunghissimo. Se devo giudicarlo dalle cose che vidi e che sentii. Mi parve di essermi svegliato di soprassalto al frastuono di migliaia di clacson, di tamburi battenti a ritmo di marcia che scandivano un imponentissimo canto marziale. Affacciatomi. Mi trovai dinanzi a una grandissima piazza che non avevo mai visto. Strapiena di folla. Specialmente di giovani. Che, con bandiere rosse in testa, continuavano ad affluire da tutte le parti. Come fiumi in piena che venissero a sfociare in quel mare di gente. Un colpo fortissimo di cannone fu il segnale che intimò e ottenne un silenzio immediato. Tutta quella folla era rivolta verso un palco altissimo che sorgeva lontano sul fondo della piazza. Appena comparve un uomo, batté mani e grida di evviva frenetiche lo salutarono a lungo. Tommaso Orso cenne il silenzio. Egli cominciò a parlare in una lingua di cui non riuscivo a capire nulla. Mentre assistevo a quella spettacolare adunata, avvenne un fenomeno strano. Man mano che l'oratore parlava, gli altoparlanti ne diffondevano la voce in tutte le direzioni. La superficie della piazza si dilatava, si allargava fino a non poterne più vedere i confini. Soltanto riuscivo ad afferrare un confuso fluttuare di folla verso lontananze sempre più sfumate. Fu qui che, nello stupore di quella strana visione, intervenne alta e millantatrice la voce del maligno. Guarda, guarda che spettacolo meraviglioso. È tutta gioventù passata dalla mia parte. Sono giovani miei. Molti li ho corrotti con la lussuria, con la droga, con lo spirito di ribellione. Ma la maggior parte di questi l'ho conquistata col laccio del materialismo ateo. Quasi tutti sono cresciuti senza i vostri sciacqui battesimali. Questi giovani sono passati attraverso scuole programmate per insegnare un ateismo radicale. Lì hanno imparato che non è stato quello di lassù a creare l'uomo, ma è stato l'uomo a creare stupidamente lui. Ora sono pronti e agguerriti per una lotta attiva contro di lui. Stenta a scomparire. Ma scomparirà. È fatale. Questi miei giovani hanno imparato a disfarsi di tutte le cosiddette verità eterne. Per essi esiste solo il mondo materiale e sensibile. È stato un gigantesco lavaggio del cervello? E di questo continueremo a servirci contro tutti coloro che osassero tenersi ancora aggrappati alle vecchie credenze. Egli deve scomparire in modo assoluto dalla faccia della terra. Presto verrà il giorno che neppure il suo nome sarà più ricordato. Le poche zone di resistenza che non riusciremo a eliminare con la nostra filosofia le annienteremo col terrore. Ci sono, per gli ostinati, decine e decine di lager dove li manderemo a marcire. Così per tutti i paesi della Terra. Uno dopo l'altro. Tutti devono cadere ai miei piedi. Abbracciare il mio culto. Riconoscere che l'unico signore del mondo sono io. A questo punto. Mentre il maligno si esaltava nel parlare con tanta sicurezza. La piazza improvvisamente scomparve. Di tutta quella folla sterminata nemmeno la più piccola traccia e il discorso dell'oratore cessò come per una inaspettata interruzione di corrente. Subito mi trovai in un profondo sotterraneo illuminato da una luce scarsa che mi fece ricordare i cunicoli delle catacombe romane. Dominate da un'aria di serenità e di pace. Visto laggiù. Lontano. Un punto luminoso. Mi avviai con animo e passo sicuro in quella direzione. Inoltrandomi. Sentii venirmi incontro l'eco di una preghiera corale. Mi fermai. Sperando di percepirne il significato e mi accorsi che. Sebbene si trattasse di una lingua a me ignota. Quella buona gente cantava il Padre Nostro. Una forza interiore mi incoraggiò ad andare avanti. Uno del gruppo accortosi della mia presenza. Mi venne incontro. Aprì sorridendo le braccia e in buon italiano mi domandò: sei forse un nostro fratello? Sì. Sono un vostro fratello e ci abbracciammo calorosamente. In nome di Dio gli chiesi. Dimmi. Dove mi trovo e voi chi siete? Ti trovi in un sotterraneo di un paese dei senza Dio. Due volte la settimana? Di notte. Ci riuniamo qui per le nostre preghiere comuni. Per partecipare alla liturgia e ringraziare Dio meglio che possiamo. Sorrise vedendo il mio stupore e continuò. Vedi? Qui siamo appena un centinaio. Ma altrove si raccolgono in numero anche maggiore a pregare per noi. Per la patria. Per il mondo tutto. Come ai tempi delle catacombe. Esatto. Come al tempo delle catacombe. Questa è la nostra catacomba. Non è dunque vero che Dio è stato eliminato da questo grande paese. Dio non si può eliminare. Fratello mio. Cacciato dalla porta. Entra dalla finestra e per tutte le vie misteriose che egli soltanto sa aprirsi. Secondo mio interlocutore si accorse che ero commosso e tacque. Vedo che ci sono anche dei giovani. Qui. Circa la metà sono giovani. In altri rifugi ce ne sono di più. Giovani che non vengono soltanto a pregare. Ma a lavorare. Pensa. Caro fratello. Dopo una giornata di fatica spesso estenuante, questi figlioli sacrificano, a turno, intere ore, per venire qui a prestare la loro opera. Che cosa fanno? Vieni. Te lo mostrerò. Dopo una piccola svolta a destra, scesi alcuni gradini. Ci trovammo in un antro con alcune uscite di sicurezza. In quell'antro era stata installata una rudimentale officina tipografica. Qualche macchina per scrivere. Una stampante. Una legatoria e altre attrezzature. Cosa stampano? Anzitutto parti della Bibbia. Vangeli. Atti degli Apostoli. Piccoli messali per il popolo. Libri di preghiera e poi romanzi e poesie di scrittori non allineati e condannati o espulsi dalla patria. Nel nostro paese molte persone hanno già letto così le opere di Pasternak, di Sinjavsky, di Solzhenitsyn e di altri scrittori controcorrente. L'esempio di questi uomini è enorme sulla nostra gioventù. Appena questa si è accorta di essere stata per anni e anni turlupinata e imbottita di menzogne nei discorsi di piazza, con i libri, nelle scuole, è stata presa da una fame insaziabile per la verità. Vogliono sapere la verità su tutto. Mi accorsi che il mio accompagnatore, mentre parlava, continuava a scrutarmi. Accertatosi che come poteva parlare liberamente, continuò a vuotare il sacco. Mi tirò un po' in disparte. Fatosi più vicino, mi prese le mani nelle sue e continuò. Vedi? Io sono un prete ortodosso. Ma da anni sono dissenziente con i miei superiori completamente politicizzati dal regime e passati al servizio del partito. Sono costretto perciò a vivere alla macchia. Questi giovani lo sanno. La voce è passata da qui ad altri rifugi e così mi tocca trasferirmi da un rifugio all'altro per il servizio religioso. Che cari ragazzi! Mi hanno accordato tutta la loro fiducia. Mi trattano come un padre. Mi aprono la loro anima. E vedessi che anime! E questo nel paese dei senza Dio. Oh no! Non dire così! Qui Dio c'è! E lavora con la sua grazia e ottiene. Credimi! In questi 50 anni di prova infernale il popolo russo ha dato a Dio eserciti di santi e di martiri come mai nella storia passata. Tutto ciò che questo popolo ha sofferto e sta soffrendo non è perduto. Io penso che sia il lungo inverno che prepara nel nostro paese una primavera mai vista. Una rinascita religiosa che farà invidia a tanti paesi liberi. Vedi? Io sono accusato di cattolicizzare troppo? Questi giovani lo sanno ed è per questo che mi accordano la loro fiducia. Pensa. Ci sono tra questi ragazzi alcuni che sanno a memoria il Vangelo secondo Giovanni, qualche lettera degli Apostoli e altri testi importanti. E stampano e diffondono tutto questo. La Russia ne è piena. Dio mio! Quanto è consolante tutto questo! Anche tu sei sacerdote? Sì. Mi abbracciò con forza e baciandomi disse: E vieni dall'Italia? Da Roma? Qui dicono che l'Italia è tutta comunista. È mai possibile? Tutta no. Ma in gran parte sì. Ma come è possibile? Ma lo sanno che cosa significa vivere sotto il comunismo? Qui in Russia non c'è più nessuno che ci crede. Qui ai nostri giovani è bastato fare il confronto tra la propaganda ufficiale e la realtà della vita nel nostro paese per perdere la fede nel partito. Quello che in Italia non riusciamo a far credere, specialmente ai giovani. Mi tirò ancora alquanto in disparte e continuò. Vedi? Qui il materialismo ci ha cacciati in un vicolo cieco. L'anima russa non sa fare a meno di una spiegazione sull'uomo e sul mondo. E poiché il materialismo in questo è fallito, Ci si rivolge con una sete istintiva ai valori spirituali. Alla Chiesa. A Dio. L'ideologia marxista ci porta alla